Ayo, finiga, 100%, finiga, 100%, ayo, finiga, sono originario della Latina, presumi, tre uomini, terra, terra salda, qua, unico, inimitabile, 100%, farmaci, 100%, questo è il suono originale della locanda, no? Praticamente Zinnigas 100%.